No, it's hot. It burns. No. No, no, no, no. Ryan ha nazionalizzato la Fontaine Futuristics. Adesso è sua, completamente sua. Per il bene della città, dice. La smembrerà a tempo debito, dice. Io mi sono dimesso dal consiglio con una lettera di protesta, ma è come pisciare al vento. Sarà guerra, dico io. A meno che qualcuno non fermi Ryan. E alla svelta. Mi stupisce che Fontaine non si sia scomodato troppo dalla sua stessa scomparsa. La vigilia di Capodanno e i suoi miserabili ricombinanti sono usciti in massa dalle loro catapecchie e hanno assaltato le proverbiali barricate. I morti marciscono per le strade e i cittadini Johnny e Jane sono in coda attorno all'isolato per avere dei plasmidi. Qualunque cosa aiuti a respingere quella marmaglia. Ho implorato Mr. Ryan di affidare la Fontaine Futuristics ai ragazzi di Atlas come offerta di pace, ma quello stupido non sente ragioni. Anzi, si limita a ricombinare i suoi, dando loro plasmidi sempre più forti, in quantità maggiore. C'è una corsa agli armamenti qua giù a Rapture, ma non la vince chi costruisce le armi migliori o le bombe più grosse. Vince chi rinuncia di più alla propria umanità per diventare un mostro. Non ho mai ucciso un uomo. Figurarsi un amico. Ma a questo siamo arrivati. Non so se uccidere Mr. Ryan fermerà la guerra. Ma so che non si fermerà finché quell'uomo respira. Voglio bene a Mr. Ryan, ma voglio bene a Rapture. Se per salvare l'una devo uccidere l'altro, così sia. All right, so Phil, I tracked the problem that was blocking the tubes here, and you'll never believe where I ended up. The damn farmer's market, clear on the other side of Rapture. I fixed it right up and installed some new gaskets. They keep their shit in terrible shape over there. Anyway. The code is 0512 if you ever need to get back in there to do maintenance. Io, un'assassina, questa poi. Avrei potuto conviverci, immagino. Ricombinata. Dimenticare. Credevo in questo posto. Credevo in Ryan. Ma quando si è messa male, Ryan non ha creduto in Rapture. Non ha creduto nella grande catena. Ha creduto nel potere. E adesso questo posto è fottuto. E la mia bambina è morta. Peggio che morta. Una di quelle cose. Quindi sono un'assassina. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Ho dovuto farmi sbattere da quello scimmione per 3 settimane, ma finalmente ha sputato il rospo su come arrivare ad Andrew Ryan. Generare un sovraccarico simpatico nel nucleo armonico numero 3. Tutto qui. Ora devo solo capire che cosa cavolo è un sovraccarico simpatico, per non parlare di un nucleo armonico numero 3. Uno scherzo per un ingegnere elettrotecnico. Peccato che disegni scarpe da donna. Andrò a trovare i meccanici sopravvissuti al controllo delle perdite caloriche. Vedrò cosa riesco a farmi dire. Non ho riconosciuto la tipa che è venuta in negozio oggi. Aveva un paio di tette così, ed era tutta in tiro. Cercava di non dare nell'occhio, ma anche un cieco avrebbe capito che era messa male. Chiedeva de serrature magnetiche e roba del genere. Io ho tergiversato, ma lei insisteva. Dopo averle dato una bella occhiata al fondo schiena, l'ho mandata ai laboratori di Kiburz. Rapture è andata in malora. Ma ogni tanto la grande catena ti riserva ancora qualche sorpresa. Beh, lascia che ti dica una cosa, De Kiburz e di tutti quegli intelligentoni. Sono tanto svegli, tranne quando non lo sono. La settimana scorsa l'ho fatto bere un po' e prima che dicessi V, mi ha spifferato che il codice d'ingresso del suo ufficio è la data dell'Australia Day. Adesso ogni settimana entro lì bello pacifico e frego un paio di verdoni dalla cassa. L'australiano non se ne accorge e non sarò certo io a dirglielo. Là dentro c'è un sacco di roba strana. Magari un giorno diventerò più ambizioso. Ho trovato il problema che bloccava le tubature e non indovinerai mai dove sono sbucato. In quel cavolo de mercato agricolo, proprio all'altro capo de Rapture. Ho riparato tutto e messo delle nuove guarnizioni. Che disastro. Comunque, il codice è 0512, nel caso tu debba tornare lì dentro per fare manutenzione. Ma l'avete capito che c'è una guerra? Se non fate una manutenzione come si deve, i Big Daddy consumano quegli R-34, come le ragazze dell'Ibs consumano la penicillina. La gente de Atlas ci attacca in continuazione e ho due meccanici morti solo questa settimana. Dobbiamo limitare le spese. Se volevo avere a che fare con dei dilettanti, sarei rimasto sulla terraferma. I ricombinanti di Ryan stanno trascinando via la ragazza in questo istante. Sono certo che sia una delle sue spie mandata a tenermi d'occhio. Credo che lo sia. Se mi sbaglio, una ragazza innocente finirà su quella macabra parete dei trofei di Ryan. Se ho ragione, beh, meglio che abbia ragione. Il congegno è quasi finito. Non posso mollare adesso. Non posso. L'involucro base è pronto. Nel mio ufficio c'è una carica di nitroglicerina che servirà da catalizzatore. Ora mi servono 4 capsule da schermatura cavi in piombo R34 per passare il circuito. E poi una mezza confezione di gel ionico, la ciliegina sulla torta. Dovrebbe mandare il nucleo in compensazione, togliere corrente alla linea e attivare il salvavita sulla porta di Ryan. Questo in teoria funzionerà a meraviglia o farà saltare mezza Rapture. Staremo a vedere. Che strano sogno. Una specie di albero da frutta che girava come una trottola e faceva colare un succo giù per la gola di Ryan, soffocando quel bastardo. Ma non era proprio un albero. Quando ho guardato da vicino, era il controllo del nucleo, il congegno che alimenta le serrature magnetiche sulla porta di Ryan. Non si può togliere la corrente, deriva dalle fonti vulcaniche. A Ryan il succo non manca mai. Ma forse ci si può affogare dentro, quel bastardo. Ho passato il pomeriggio ad avvicinarmi il più possibile alla porta di Ryan senza farmi notare. Si è asserragliato proprio per benino. Non c'è modo di entrare in quel posto. Tanta fatica solo per farmi fare la radiografia dai ricombinanti di Ryan. Questo è ciò che ottieni se provi a fregare il miglior ingegnere elettrico della nostra generazione. Che differenza c'è tra un uomo e un parassita? Un uomo costruisce, un parassita dice: dov'è la mia parte? Un uomo crea, un parassita dice: cosa penseranno i vicini? Un uomo inventa, un parassita dice: attento, potresti pestare i piedi a Dio. C'è sangue sulle strade? Per forza. Qualcuno ha deciso di distruggersi con una ricombinazione smodata? Innegabile. Ma io non farò proclami, non imporrò leggi. La grande catena si muove lentamente, ma con saggezza. È la nostra impazienza a invitare il parassita del grande governo. E una volta che l'avrete fatto entrare, non smetterà più di cibarsi del corpo della città. Costruire una città in fondo al mare. Follia! Ma dove altro potevamo vivere liberi dalla morsa dei parassiti? Dove altro potevamo costruire un'economia che loro non avrebbero cercato di controllare? Una società che non avrebbero cercato di distruggere? Non era impossibile costruire Rapture in fondo al mare. Era impossibile costruirla altrove. Ah. Sviluppo avanzato, lotto 111, dottor Suchong, cliente Fontaine Futuristics. Ora il bambino ha un anno, pesa 25,4 kg e ha pressoché la muscolatura di un 19enne in salute. I risultati sono deludenti, ma entro i limiti di tolleranza. Test clinico plasmide di controllo mentale lotto 255, dottor Suchong, cliente Fontaine Futuristics. Metti la mano nella fiamma, ragazzo. Metti la mano nella fiamma! Metti la mano nella fiamma, per cortesia. Ah. Put your hand in the flame, boy. Put your hand in the flame, would you kindly? Consegna iniziale, camera della vita. Cliente Ryan Industries, fase 1 completata. Sinclair e Alexander hanno provato a spiegarmi la scienza, ma Suchong non crede a loro. Continuano a blaterare di ricostruzione plasmidica e groviglio quantico. Poi la gente improvvisamente torna in vita. Stronzate! Ovviamente per il test Ryan lo farà sintonizzare esclusivamente sulle sue frequenze genetiche. It'll take her a bit to get here. In the meantime, we have to talk. Cristo, stai facendo un casino d'inferno! Se hai sovraccaricato il nucleo, c'è solo un'ultima cosa da fare. Torna all'ingresso di Ryan e bypassa il salvavita per entrare. Attenzione, Ryan si sta muovendo. Meglio rimanere concentrati. È il momento di sbancare il tavolo o tornare a casa in mutande. Ryan ha la chiave genetica di Rapture. Se gliela prendiamo, ce ne andremo da questo inferno. Altrimenti, diventeremo tutti e due fantasmi. Ora, per cortesia, dovresti andare all'ufficio di Ryan e uccidere quel bastardo. È giunto il momento di farla finita. Sono tutti morti? Lo spero. Meglio dirigersi verso il nucleo. Cosa? Ryan ha impostato l'autodistruzione del nucleo! È una cosa diversa da quella che hai fatto tu! Ha intenzione di far saltare per aria tutta la città! Va là dentro e sistema quel verme prima che sia troppo tardi! Credo che tu abbia appena aperto la strada per Ryan. Adesso torna da lui, ma sta pronto a combattere! Sembra una bomba vera? Meglio così. Mettila nel nucleo oltre il controllo geotermico. Scopriremo se i nostri amici sapevano realmente di cosa stavano parlando. Pare che l'oceano voglia riprendersi questo angolo di Rapture. Questo accadde proprio all'inizio della guerra. Ricordo di averne letto sui giornali. Entra, vedrò cosa posso fare per aiutarti. Non sono un ingegnere, ma se ho letto bene queste planimetrie, puoi incanalare il flusso di magma usando la valvola di deviazione. Farà evaporare tutta l'acqua in un battibaleno e potrai raggiungere il nucleo. Ma Ryan se ne accorgerà e creerà un perimetro di sicurezza. Sbrigati su! Prendi la chiave genetica di Ryan! Per cortesia, ficcala in quella maledetta macchina! Bel colpo, ragazzo! È il momento di mettere fine a questa mascherata. Non esiste nessun Atlas, bello mio. Non è mai esistito. Nel mio lavoro si deve cambiare identità molto spesso. Diavolo, per 6 mesi sono stato addirittura un cinese. Ma tu sei stato un amico e ti meriti un po' di onestà. Il mio nome è Frank Fontaine. Search that asshole's body, would you kindly? Devo dire che ho avuto un sacco di soci d'affari in vita mia, ma tu... Certo, il fatto che tu sia stato geneticamente condizionato per scodinzolare come un cocker non appena dico per cortesia c'entra qualcosa. Però... Ora, appena quella macchina terminerà di processare la chiave genetica che hai appena sottratto a Ryan, io governerò Rapture. Sei stato un vero amico, ma sai come si dice, mai mischiare l'amicizia con gli affari. Grazie di tutto, ragazzo. E non dimenticare di salutare Ryan da parte mia. Ora, appena quella macchina terminerà di processare la chiave genetica che hai appena sottratto a Ryan, io governerò Rapture. Sei stato un vero amico, ma sai come si dice... Mai mischiare l'amicizia con gli affari. Grazie di tutto, ragazzo. E non dimenticare di salutare Ryan da parte mia. Rapture sta tornando in vita. Non senti in questo stesso istante il respiro che le riempie i polmoni? I negozi che riaprono? Le scuole che risuonano dei pensieri delle giovani menti? La mia città vivrà, prospererà. E quando verrà quel giorno, useremo la tua lapide per lastricare le strade. Riesci a sentirlo, vero? Andrew Ryan. Un verme alza lo sguardo e vede finalmente il volto di Dio. Ma guardati intorno. C'è una vera e propria convention di vermi qui dentro. Avevano tutti una madre, un padre, gente che li amava. Si sono sposati, hanno scopato la moglie. Cosa ti fa credere di essere diverso? Non ti ho ancora scelto un posto sulla parete. Fammi sapere se hai preferenze. Anche nei libri pieni di menzogne, qualche volta si può trovare la verità. C'è un tempo per tutto. E ora che ti vedo in carne e ossa, so che non posso alzare la mia mano contro di te, ma voglio che tu sappia che sei la mia più grande delusione. Il tuo maestro può sentirmi? Atlas! Puoi anche uccidermi, ma non avrai mai la mia città! La mia forza non è nel ferro e nel fuoco! È questo ciò che i parassiti non capiranno mai! C'è un tempo per tutte le cose! Un tempo per vivere e uno per morire! Un tempo per costruire e uno per distruggere! Vieni, figliolo. C'è un'ultima cosa della quale discutere. Vedo che Cohen ha perso la mano. Se l'avessi conosciuto quando credeva nel lavoro, nello sforzo. E adesso marcisce in quell'isola che non c'è, in attesa che qualcuno vada a dirgli che è ancora bravo. Forse è per questo che ti ha lasciato vivere. Che cosa non daresti in cambio di un altro respiro, parassite? La dignità? L'onore? La tua identità? Sei venuto a derubare la mia città, ma in tua assenza io ti ho studiato e mi sono chiesto se ci fosse qualcosa da prenderti. Adesso so esattamente cos'è. Piantala. Questa volta sarà un successo. E pensare agli sforzi necessari per crearti. Hanno speso male i loro soldi. Quelle creature ti uccideranno? Neppure io lo so. Mentre mi trascini verso l'abisso, anche tu ti avvicini insieme a me. Ti offro una morte rapida, parassita. Sarà preferibile a ciò che scoprirai se vinci. Come tutti i parassiti che hanno tentato di entrare qui, ti credi chissà chi. Potrei spiegarti le ragioni scientifiche per cui ciò che cerchi di fare è impossibile. Ma sarebbe come suonare Mozart a una raganella. C'è sangue sulle strade? Per forza. Qualcuno ha deciso di distruggersi con una ricombinazione smodata? Innegabile. Ma io non farò proclami. Non imporrò leggi. La grande catena si muove lentamente, ma con saggezza. È la nostra impazienza a invitare il parassita del grande governo. E una volta che l'avrete fatto entrare, non smetterà più di cibarsi del corpo della città. Immagina quanta volontà mi ci è voluta per creare un posto come questo. E tu? Cosa hai costruito? Niente. Sai solo depredare e spaccare. Tu non sei un uomo. Sei solo una termite alla reggia di Versailles. Prima che l'ultimo ratto abbia divorato l'ultimo grammo di te, Rapture sarà risorta. Io guiderò una parata. Quello chi era? Diranno puntando al triste figuro appeso sulla mia parete. Quello chi era? Così lontano dalla tua famiglia, dai tuoi amici, da tutto ciò che amavi. Ma per qualche ragione ti piace stare qui. Senti qualcosa, qualcosa di intangibile. Rifletteci un secondo e forse ti verrà in mente la parola. Nostalgia. Un uomo costruisce una città in fondo al mare. È una meraviglia. Un altro uomo si trova per caso su un aereo che si schianta proprio su quella città in mezzo all'oceano. Beh, ha l'aria di un mezzo miracolo. E in fondo, ciò che conta per me sono io. E ciò che conta per te sei tu. È la natura delle cose. Cosa ti ha offerto, Atlas? Una parte del bottino della mia città saccheggiata? Ricorda le mie parole. Ti troverai un coltello nella schiena. Malgrado il crollo delle mie difese fisiche, non mi sconfiggerai! La mia forza non è nel ferro e nel fuoco, ma nell'intelligenza e nella volontà! Mi senti, Atlas? Andrew Ryan non ti offrirà altro che cenere! The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. You think you have memories. A farm, a family, an airplane, a crash. And then this place. Was there really a family? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Forced down. Forced down by something less than a man, something bred to sleepwalk through life until they are activated by a simple phrase, spoken by their kindly master. Was a man sent to kill or a slave? A man chooses. A slave obeys. Come in. Stop, would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run! Stop! Turn. A man chooses. A slave obeys. Kill! A man chooses! A slave obeys! Obey! Uccidilo e poi appendilo come tutti gli altri. Procedura di autodistruzione annullata, grazie. La città è soggetta a una procedura di autodistruzione. Attendere, prego. Attento, signore! Vieni con me! Dai, seguimi! Ah, un regalo! Ti piace, vero? L'assassino ha superato anche la mia ultima difesa. E ora sta venendo a uccidermi. Alla fine, cosa distingue uno schiavo da un uomo? Denaro? Potere? No. Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Credi di avere dei ricordi? Una fattoria? Una famiglia? Un aeroplano? Uno schianto? E poi questo posto. C'era veramente una famiglia? L'aeroplano si è schiantato o è stato dirottato? È stato costretto all'atterraggio da qualcosa, allevato e reso inerme per una vita, finché non è stato attivato da una semplice frase del padrone. Chi è stato mandato a uccidere? Uno schiavo o un uomo? Uno schiavo obbedisce. Un uomo sceglie. Entra. Fermati, per cortesia. Per cortesia. Una frase potente. Suona familiare. Siediti, per cortesia. Salta, per cortesia. Corri. Fermo. Girati. Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Uccidi! Un uomo sceglie! Uno schiavo obbedisce. Obbedisci! Va bene, ragazzo. Affrontami, su. sentirai. What? Hey, no, don't, that, that, ah! Damn it, why can't Ryan take care of this crap himself? Salutami Fontaine, traditore figlio di puttana! The circuit breaker's over there, yeah. Just a little further. Perché Mr. Ryan ha cose più importanti che far osservare la lealtà fra i ranghi. Il salvavita è di là, sì. Perché Ryan non si occupa personalmente di questa roba? Perché Mr. Ryan ha cose più importanti che far osservare la lealtà fra i ranghi. Salutami Fontaine, traditore figlio di puttana!